Beh, questo video è dedicato alle persone che oggi si impegnano seriamente, con competenza, per portare una trasformazione nella situazione di crisi in cui ci troviamo oggi. In particolare, questo video serve, è rivolto proprio agli economisti critici, che inviterei a riunirsi il più possibile in associazioni sinergiche per informare la popolazione di quello che sta succedendo oggi. Perché il problema, a nostro avviso, non visto dal nostro punto di vista, qual è? È che l'assoluta maggioranza della popolazione, forse il 95% della crisi attuale, non ha capito niente. Forse 100.000 persone in Italia hanno le idee chiare, gli altri no. Quindi il neoliberismo può vincere tranquillamente la sua battaglia, ormai stravinta in realtà, grazie all'ignoranza delle persone. Allora, qual è la nostra proposta come Aleph? Chi siamo noi? Beh, noi siamo un'associazione che ha una particolare competenza nella didattica e nella formazione. Cioè, facciamo questo da 30 anni e quindi ci siamo specializzati nel comunicare in modo efficace con le persone in modo che i messaggi arrivino. E quindi vedremo che abbiamo anche sviluppato un linguaggio di simboli che rende semplice comunicare cose complesse, come la psicologia. Noi ci occupiamo soprattutto di formazione personale e di lavoro, di crescita personale, di trasformazione personale. E su questo abbiamo ottenuto risultati, direi, di livello molto buono. Quindi adesso vorremmo riunire le forze con gli economisti, che loro le cose le conoscono davvero, per poter dare il nostro contributo, che il nostro contributo è un contributo di formatori. Formatori, cioè coloro che generano una forma mentis in grado di poi mettere in ordine i contenuti ricevuti. Ecco, di questo poi parlerò in un altro video. Allora, che cosa ci vuole a nostro avviso? In tre parole. Bisognerebbe fare un'associazione di associazioni, qualcosa che ci unisca, pronti quindi a fare dei convegni, naturalmente come già sono stati fatti. Ma i convegni non sono poi risolutivi, perché se andiamo a vedere i numeri in internet sono visti da poche persone, tutto sommato, ma migliaia di persone, poco più, 2.000, 3.000. E le persone ai convegni sono ancora meno, quindi non c'è un grande impatto. Invece l'idea, poi vedrete come stiamo sviluppando noi, potrebbe avere un impatto, dovremmo raggiungere 1 milione, 2 milioni di persone. Questo è lo scopo di questo video. Come possiamo raggiungere 2 milioni di persone? Facciamo così. Allora, associazioni e associazioni. A chi dovrà partecipare a questo? Beh, dei veri ricercatori. Un sangha, cioè un gruppo di nobili amici, come direbbe il buddismo, o in altri modi, un gruppo di, come direbbero nelle nostre tradizioni filosofiche, un gruppo di filosofi, come faceva Aristotele, che parlava dei filosofi che si riuniscono in amicizia, cioè persone che veramente si rispettano l'un l'altro e quindi praticano tra di loro le qualità dell'essere, dell'empatia, della condivisione, della gioia, della ricerca del bene comune e così via. Quindi filosofi, ricercatori, che possono essere economisti, che cerchiamo gli economisti, ma che abbiano questo atteggiamento di apertura mentale, quindi di umiltà, di capacità di apprendere gli uni dagli altri, di interesse reciproco, tutte le qualità dell'essere sul quale noi vogliamo lavorare. Ecco. La nostra associazione si pone come obiettivo fondamentale spostare l'asse dalle inquinanti della mente egoici, di cui l'economia e la finanza di oggi sono diretta espressione, alle qualità dell'essere o qualità dell'amore, di cui l'economia di oggi non vede neppure una sfumatura. Gran parte dell'economia di oggi è non altro che un'economia predatoria di guerra, in cui la competizione vince in modo assolutamente esagerato rispetto alla cooperazione. Ok, allora, ricercatori che sono disposti a unirsi insieme per un obiettivo comune, anche con idee diverse per certi aspetti. Basta che noi oggi tutti ci uniamo, come in Italia aveva fatto il Comitato di Liberazione Nazionale, che dentro prevedeva forze diverse, dai democristiani, ai comunisti, ai socialisti e ai liberali. Tutti questi si sono uniti insieme e poi hanno creato le forze intellettuali che hanno generato la Costituzione italiana, che è una delle più belle al mondo. Erano tutti uniti contro un comune nemico, che era il nazifascismo. Oggi abbiamo tutti un comune nemico, che è il neoliberismo. Chi l'ha capito sa che il neoliberismo è una nuova forma di prevaricazione dell'uomo sull'uomo, forse la peggiore in assoluto che ci sia mai stata, perché è subdola e ha reso la maggioranza delle persone acquiescenti e anzi li ha resi embedded, cioè connessi al sistema. Tutti mettiamo soldi in banca, tutti investiamo senza saperlo, senza proprio conoscere cosa stiamo facendo, quindi mettiamo soldi nel circuito dell'economia finanziaria, cioè della finanza. La finanza, sappiamo tutti, oggi è il cancro, il tumore maligno del pianeta che viviamo. Allora, questi ricercatori, vi dicevo, sono ricercatori, nei nostri termini, ricercatori animici, cioè non guidati dall'ego, quindi dalla prepotenza e dal bisogno di prevaricarsi, ma dalla capacità di collegarsi gli uni agli altri. Quindi c'è un atteggiamento di filia verso la ricerca, di amore per la ricerca e di amore per la verità. Quali sono le caratteristiche evidenti di un gruppo di ricercatori di questo tipo? Beh, la passione per quello che fanno, la condivisione, l'entusiasmo, l'incremento di vita. Quando ci si riunisce, si esce da quelle riunioni più carichi di prima, perché mentre durante quella riunione si è vissuto bene, perché si è vissuto in amicizia, mai in ostilità. C'è Eros, si erotizzano le cose di cui si parla. L'eros è ciò che dà vitalità alle cose. Quando non c'è eros, c'è l'opposto, che c'è Thanatos, cioè non ci deve essere morte, non ci deve essere la complicazione e la noia mortifera di certi convegni, ci deve essere vitalità, eros. Ci deve essere humor, ci deve essere capacità, gioco, capacità di ironizzare su se stessi, ecco. Ecco, ci deve essere anche forza, cioè queste persone sanno che stiamo lavorando insieme per un progetto necessario, necessario. Direi in termini orientali si chiamerebbe un dovere dharmico fare questo. Vedete, gli economisti, da un certo punto di vista, sono come i medici della società, perché se l'economia va male, la società si ammala. Allora gli economisti hanno un dovere dharmico di fare davvero i medici, e cioè di lavorare in comune per il benessere delle persone. Questo è il compito degli economisti oggi. Naturalmente sappiamo che la maggioranza degli economisti non ha questo in testa, come una parte dei medici di oggi hanno in testa un'altra cosa, cioè il denaro. Hanno interesse, hanno il profitto, le posizioni di privilegio e così via. Ora, i neoliberisti hanno sempre premiato le persone disposte ad assecondare i loro fini, mentre gli economisti critici di solito fanno una vita più difficile accademicamente, di solito sono isolati, emarginati e così via. Quindi queste persone, gli economisti critici, dovranno riunirsi insieme in spirito di amicizia, fratellanza e con l'entusiasmo che è necessario per poter vincere una battaglia durissima. Perché oggi informare in modo retto è difficile, in quanto il neoliberismo, come sapete, ha in mano tutta l'informazione. Tutti i mass media sono in mano al neoliberismo, non solo, ma hanno in mano le università. Perché sappiamo benissimo che le cattedre importanti di economia politica, sono in mano quasi esclusivamente al movimento neoliberista. Perché dispone di molti soldi e quindi è stato qui. Questo progetto neoliberista, ci sono i testi su internet per comprenderlo bene. Allora, questi economisti, no? Questo gruppo di amici economisti ma anche filosofi, bisogna generare un sapere che sia integrato e non più iperspecializzato, bisogna creare un linguaggio comune. Quindi ci dovrà essere anche un'attenzione interdisciplinare, l'economia non può prescindere dalla ecologia. Sappiamo tutti che siamo in un mondo in condizioni terminali, difficilissimo da venirne fuori, per il clima e per mille ragioni, ma anche per molte altre ragioni. Ecco, bisogna avere un atteggiamento disciplinare, scientifico e così via. Allora, questo è un intervento umanistico, perché di difesa della nostra Costituzione. La nostra è una Costituzione che ha le sue basi nell'etica umanistica. Ricordatevi che si parla nella nostra Costituzione di che cosa fondamentalmente? il pieno sviluppo della persona umana, pieno sviluppo della persona umana. Cioè lo Stato ha il compito di rimuovere il pieno, gli ostacoli di ordine economico, quindi economisti, amici miei, la Costituzione vi chiama in causa, e sociale, a questo compito, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Inoltre la nostra Costituzione inizia mettendo al terzo nome che usa, terzo, che cosa mette? L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Eccolo qua, questa è la nostra Costituzione. Ora, la Costituzione è figlia delle forze della Resistenza che si sono unite anche se avevano idee diverse. Su questo sarebbe successo dopo, ma sull'idea che il nazifascismo fosse il male assoluto non c'erano dubbi. Bene, oggi il neoliberismo va trattato nello stesso modo. È molto difficile perché la maggioranza delle persone assoluta, senza saperlo, è neoliberista dentro. Okay. Bene. Quindi i ricercatori, come ho detto prima, con queste intenzioni e queste caratteristiche, quindi di gentilezza, di umiltà, a differenza di gran parte di ricercatori che sono spinti non da filia per la conoscenza, ma dalla malizia, cioè io divento, acquisisco conoscenze per poter far che? Per poter trovare posizioni di dominio e privilegio, questo è il nostro simbolo. Ok, vi faccio degli esempi. Che non si tratta solo di economisti, ma si tratta di riunire insieme gli scienziati, ma anche i poeti, gli artisti, i musicisti. In Grecia, uno degli autori che ha scritto una delle cose più belle sulla Grecia e sulla situazione attuale non è un economista, è un musicista, è Miki Theodorakis, che ha scritto una lettera commovente. Lui ha 87 anni, gira ancora il mondo e si ricorda della resistenza greca, in cui lui ha passato periodi in prigione, quindi è stato un perseguitato, credo anche torturato, e dice, ma noi dobbiamo restituire al popolo greco quella forza, perché dentro il popolo greco c'è la forza di resistere all'oppressore. Oggi l'oppressore è dentro le nostre case, dentro la televisione, dentro i giornali, dentro le nostre teste, è lì l'oppressore. Noi che ci poniamo da un punto di vista, la nostra specializzazione semmai è psicologica, noi abbiamo visto in questi ultimi 10, 15, 20 anni una trasformazione della psiche umana. Non è più quella di prima. Chi lavora all'università lo sa benissimo, chi insegna, che gli studenti non sono quelli di prima. Gli è cambiato qualcosa dentro, è cambiato il carattere sociale. Le persone sono più individualiste, pensano più a se stesse, sono più spaventate del futuro. Ecco, questi sono i mezzi attraverso i quali il neoliberismo ha colonizzato le menti umane. Va capito bene, il neoliberismo non è una dottrina economica, è una dottrina del tutto, riguarda il modo di pensare in generale. Quindi anche il modo di pensare la psiche. E siccome hanno dotati di molti soldi, riescono a lavorare con i migliori psicologi per imparare come si fa a colonizzare la mente delle persone. Oggi non si parla manco più di psicoeconomia, ma di neuroeconomia. Si parla di neuroeconomia, vuol dire che si va a cercare una pubblicità che bypassi addirittura ogni livello di consapevolezza. Gli studi di Kahneman, che è stato ricercatore importante, no? E premio Nobel per l'economia, che ha mostrato come se noi siamo in una stanza come questa, io accendo uno schermo con sopra un'immagine, questa immagine influisce sui nostri comportamenti. E se ci sono, non so, un'immagine di un bosco, noi siamo più cooperativi tra di noi. Se metto un'immagine di un dollaro, improvvisamente, senza che ci accorgiamo perché, noi diventiamo meno cooperativi. Ci sono degli studi fatti molto, molto ben condotti e fanno vedere questi risultati. Quindi chi ha fatto questi studi sa bene come manipolare la mente umana per colonizzarla e renderla disponibile all'asservimento neoliberista. Il progetto neoliberista è molto semplice da capire, lo capisce un bambino di 2 anni. Si tratta di spostare la ricchezza dal basso verso l'alto, il potere e la ricchezza dal basso verso l'alto. È una normalissima lotta di classe, non c'è niente di che. Le classi dominanti stavano perdendo terreno negli anni 60, 70, il lavoro stava incrementando il suo potere, i lavoratori stavano acquistando il loro potere e quindi il profitto si stava riducendo e allora la classe che del profitto, ha voluto prendersi la sua rivincita e lo ha fatto, diciamo, in modo molto efficace. Adesso tocca a noi, con 30 anni di ritardo, cercare di recuperare il tempo perduto. Okay. Bene, allora adesso il secondo punto è questo. Noi dovremo fare dei video, dovremo fare dei video molto efficaci, dovremo fare dei video che tocchino il cuore oltre che l'intelletto delle persone, che appassionino, che rendano diano leggerezza e speranza alle persone nel loro futuro. E qui potremmo dire che c'è il contributo che possiamo dare noi, di cui vi accennavo prima. Il mio nostro contributo più importante è quello di enucleare delle idee chiare e distinte, facilmente comunicabili e apprendibili. Perché non conta tanto l'intento che ho, conta il risultato che ottengo. Se io parlo in modo forbito e anche ai miei occhi molto chiaro, magari posso essere ascoltato e capito da 500 persone, ma questo non serve quasi a niente. Oggi dobbiamo farci capire praticamente da tutte le persone che ci ascoltano. Dobbiamo metterci nei panni dell'ultima persona che non sa nulla di economia, ma rendergli le cose così semplici, con dei messaggi chiari, potenti, con delle immagini, dei simboli, adesso ne parlerò, e con delle spiegazioni, delle metafore che arrivino a chiunque. Ecco, questo è veramente importante. Quindi c'è uno sforzo da fare in queste direzioni. Lo sforzo Aleph sarà questo, di aiutare le persone veramente competenti, che sono gli economisti, critici, a avere successo, risultato nel loro lavoro. Avere idee chiare e distinte, ma non produrle, non manifestarle in modo banalizzato. A volte vedo dei video in cui si spiega con la teoria della moneta, si fa con qualche figurina, delle immaginette, così, che possono avere la loro utilità, non dico niente inutile, possono avere la loro utilità, ma ancora di più, a nostro avviso, è parlare con più, non trattare le persone come se fossero i bambini piccoli, perché qui ci troviamo di fronte a una cosa molto grande, ci troviamo di fronte a una guerra, noi quindi dobbiamo avere un rispetto anche per i nostri interlocutori, certo quando ci vogliono le barzellette, ci vogliono le figurine, tutto bene, ma possibilmente sempre far vedere che dietro a questa ci sono cose molto serie. Ecco. La serietà può avere, non deve avere la caratteristica della pesantezza, quindi giusto usare le figure, ma la vedrei che possiamo spiegare sempre le cose in modo che si veda dietro la profondità del pensiero. Ecco, la complessità non deve essere perduta, quindi deve essere data alle persone la possibilità di approfondire i nostri temi. E quindi non bastano dei video di un'ora, di mezz'ora, così. Bisognerà organizzare dei video, a partire da un video, due, a rete, così, in modo che chi non ha capito questa cosa ha tutte le possibilità. Dovranno essere messi in modo sistematico. Questo è necessario per contrastare quello che hanno fatto gli altri. Gli altri hanno lavorato sulle elite, quindi sulle università e sui professori universitari. Noi dobbiamo lavorare a livello popolare. Dobbiamo farci capire da tutti, senza banalizzare. In questa direzione possono essere molto utili, noi possiamo farlo, aiutare in questa direzione, utilizzo dei simboli Aleph, i simboli che abbiamo. Questi simboli sono stati creati per spiegare la psiche umana e funzionano molto bene. E quindi può essere che questi simboli effettivamente aiutino anche nella spiegazione del discorso economico. Comunque noi siamo a disposizione. Allora, noi abbiamo bisogno di difendere e rivitalizzare e attualizzare la Costituzione italiana. Questo è il punto centrale. Noi come economisti, come filosofi, come giuristi, io vengo dal mondo del diritto, poi ho fatto psicologia, ma vengo da quel mondo lì. Noi oggi ci troviamo di fronte a un attacco al lavoro come non c'è mai stato, ed è sempre peggio. Allora, il lavoro è al centro della nostra Costituzione. E la concezione costituzionale del lavoro è molto semplice. Che il lavoro non serve solo a vivere, ma serve al pieno sviluppo della persona umana. Non serve a sopravvivere, ecco, ma serve a sviluppare la personalità. Perché attraverso il lavoro, l'impegno, questo dà l'opportunità di socializzare, di informarsi, quindi il lavoratore va visto come essere umano e non come macchina che produce reddito. Il neoliberismo ci fa vedere i lavoratori come una merce, c'è un bel libro di Begallino scritto «Lavoro non è una merce». La Costituzione vieta che il lavoro sia visto come una merce, che il lavoratore sia visto come una macchina. Il lavoratore è un essere umano con le qualità umane, dell'empatia, della gioia, di tutte le qualità che amiamo negli esseri umani, e sottomettere un essere umano a certe catene di montaggio psichiche o alla prevaricazione è qualcosa che è insopportabile, anche se è diventato la norma. Ecco. Quindi il lavoro come emancipazione della persona, nei nostri termini, da che cosa? Dalla dipendenza del bisogno, dalla paura, e quindi il pieno sviluppo della persona umana vuol dire anche il pieno sviluppo culturale, perché la cultura cos'è? La cultura è il tessuto connettivo di un paese, di una società. Il lavoro di oggi crea una cultura che è l'opposto di un tessuto connettivo. Certo, ci connette tutti in un certo senso, ma ci rende tutti divisi uno dall'altro, ognuno che pensa a se stesso. Allora, se potessimo dire qual è, dal nostro punto di vista, il nucleo di tutta questa faccenda, è questa qua. Il potere si avvale della separazione e della divisione. Divide le persone tra di loro, perché le persone quando si uniscono acquisiscono forza. Il cuore, l'amore, crea connessione. Oggi nell'economia manca il cuore. I grandi manager, i dirigenti di una volta erano fieri se potevano assumere persone. Oggi sono fieri se le possono licenziare, perché chi licenzia fa aumentare il valore delle azioni di quell'azienda lì. Siamo all'assurdo che quanto peggio un dirigente si comporta, tanto più è pagato. Ci sono persone che hanno rovinato milioni di persone, le ha messe sul lastrico, e sono riconosciutissime, ammiratissime dalle grandi multinazionali. Questo non può più succedere se vogliamo essere umani. Se vogliamo essere macchine va benissimo. Allora, vi dicevo, questi materiali dovranno essere raccolti, sistematizzati, prendere i migliori video, vostri, nostri, unirli, commentarli, creare un tessuto connettivo appunto che generi una cultura umanistica che non è la cultura neoliberista. Quindi da una parte c'è il neoliberismo che ci vuole macchine, che è interessati solo al profitto o alla sopravvivenza, dall'altra c'è la cultura umanistica. La cultura umanistica oggi nel mondo è in decrescita, si tolgono le materie umanistiche, perché le materie umanistiche sviluppano la capacità di pensare in modo critico. Il pensiero socratico è parte centrale della cultura umanistica, ma noi oggi vogliamo delle scuole tecniche che ci insegnino al mondo del lavoro, nemmeno questo, ci insegnino fondamentalmente la capacità di sottomettersi e di diventare parte di una catena di montaggio. Questa catena di montaggio non è fatta più da operai in parte, è fatta da persone che usano la mente tutti i giorni dietro i computer. Ma sono catena di montaggio perché sono persone che non possono più permettersi il lusso di pensare, dirsi perché faccio questo lavoro per sopravvivere, va bene, ma questo lo fa anche un animale. Tu perché fai questo lavoro? Dimmi perché, qual è il tuo scopo? La domanda perché è una domanda centrale nell'essere umano. Causa iniziale, che può essere perché, vuol dire la causa per cui faccio una cosa di partenza, mi mancano i soldi, faccio questo, è la causa finale, lo faccio per ottenere che? Ecco. Allora, non saper rispondere al perché, se non perché se no non sopravvivo, è indegno di esseri umani, circondati dalla ricchezza come siamo noi. Vedete questa telecamera? Questa telecamera costa, questa lavagna costa, sta casa costa. Abbiamo tutte queste ricchezze, potremmo averne molto meno, ma però ci siamo disumanizzati, perché siamo disposti a svendere noi stessi, la nostra salute, la nostra natura, per poter vivere in situazioni di maggiore agio. Quindi è chiaro che il neoliberismo sa bene come fare. Il colpo di genio del neoliberismo è saper puntare sugli istinti più bassi degli esseri umani, anziché sulle propensioni che possono svilupparsi se c'è sana educazione. Quindi basta togliere i soldi all'educazione, basta mettere i mass media in mano a persone che sono interessate al potere e dominio, ed ecco lì che la frittata è fatta. Allora, l'obiettivo che vi dicevo è ottenere un numero alto di visualizzazioni. Ecco, ci deve essere in questi video una critica incontrovertibile ai principi neoliberisti che sono fasulli, sono sbagliati, non corrispondono alla realtà. Bisogna saper portare le idee di oggi diffuse di fronte a un tribunale obiettivo delle idee. Bisogna che le idee possano essere messe di fronte alla critica vera, quella che si fa stando in pace, riflettendo in una comunità di nobili amici, come direbbe il buddismo. Allora, tutto questo lavoro serve a risvegliare le persone dal sogno incubo neoliberista che hanno interiorizzato. Cioè bisogna uscire dalla confusione, dalla sottomissione, dalla paura, generando quindi le possibilità di un progetto realizzabile. Ma per realizzare questo progetto ci vuole un movimento che sostenga questo progetto. Quindi tutti gli economisti che ho sentito, i più importanti, tutti insistono sul fatto che la via di uscita passa solo attraverso una porta, che si chiama consapevolezza, che si chiama conoscenza, che si chiama diffusione di idee chiare sull'economia. Ecco, il nostro progetto è questo, diffondere idee chiare sull'economia, come abbiamo fatto nell'ambito della psicologia.